A Torino non è stato un episodio isolato. Le scuole italiane sono insicure, dice Bertolaso. Servirebbero 13 miliardi di euro per metterle a norma. In un anno gli incidenti nelle scuole sono stati oltre 700. L'ultimo questa mattina. Un bimbo di 6 anni è caduto dal secondo piano di una scuola milanese. Piano anticrisi per famiglie e imprese. Da questa situazione ne usciremo migliori, ma serve unità, dice la presidente degli industriali Marcegaglia. Ma nel 2009 sarà ancora recessione, avverte l'Ocse. Tre morti per una bomba a San Pietroburgo e questa sera in città si gioca la Champions League con la Juventus in campo. La diplomazia americana prova a fermare i pirati somali, trattative in corso per liberare la petroliera in ostaggio. 7 milioni di donne subiscono violenza in Italia, solo il 4% denuncia. Nella giornata a loro difesa, il racconto di chi ha saputo ribellarsi. GR Extra Large, buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Anna Migliorati. Dal crollo della scuola elementare di San Giuliano di Puglia al tetto di Rivoli nel Torinese sono passati 6 anni, ma gli edifici scolastici ancora pericolosi in Italia sono oggi 3 su 4. Questo dicono le cifre e dicono anche che solo nel 2008 ci sono stati 739 incidenti. Ne parliamo in dettaglio tra pochissimo. Ne parliamo tra poco perché proprio oggi, nella giornata in cui Cittadinanza Attiva ha promosso iniziative per la sicurezza nelle scuole italiane, a Milano un incidente c'è stato, vittima gravissimo, un bambino di 6 anni, Marco Lignana. Sì, buongiorno, mi trovo qui davanti alla scuola elementare Cappellini, periferia nord di Milano, dove questa mattina intorno alle 10 un bambino cinese di 6 anni è caduto dal secondo piano della scuola. Non si conoscono ancora le dinamiche dell'incidente, non si sa soprattutto se il bambino sia caduto fortuitamente dal secondo piano o meno. In questo momento tutti i bambini sono in classe, davanti alla scuola ci sono soltanto giornalisti e probabilmente i ragazzi non usciranno neanche alle 13, quindi per sapere qualcosa bisognerà aspettare ancora. Di certo si sa che il bambino adesso si trova in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda, in prognosi riservata. Per ora è tutto, ovviamente per qualsiasi aggiornamento vi richiederò la linea. Grazie naturalmente Marco Lignana. E proprio questa mattina nelle scuole sono stati organizzati incontri ed esercitazioni per ricordare a tutti che quello della scuola dovrebbe essere un luogo sicuro. In un istituto romano c'è la nostra Francesca Malaguti. Buongiorno, come è andata lì Francesca? Buongiorno, sono terminate da poco con il suono della campanella le attività della giornata della sicurezza nelle scuole all'Istituto Tecnico Galilei di Roma. Promossa da Cittadinanza Attiva, la giornata è stata preceduta da alcune ore di formazione nelle classi. Sono 10.000 le scuole che hanno aderito in tutta Italia con prove di evacuazione e di primo soccorso. Qui gli studenti erano un centinaio, provenienti da 5 scuole superiori di Roma. Hanno fatto 6 graffiti sui temi della sicurezza a tutto tondo, da quella strutturale degli edifici per arrivare anche alla prevenzione della violenza, del bullismo e dell'uso di droga. Sentiamo alcuni di loro intervistati mentre erano al lavoro. Il nostro slogan è chi si salva chi sa, perché il nostro progetto è appunto di far conoscere le vere problematiche della scuola, soprattutto in questo caso della sicurezza. Perché scriverlo in questo modo così artistico? Che cosa può servire? Per renderlo più bello, per la gente più curiosa. Pensi che i tuoi coetanei magari lo leggano con più attenzione scritto in questo modo? Sì. Su uno dei graffiti il volto di un ragazzo, di fianco il suo nome, Vito. La giornata della sicurezza è la sua 6ª edizione e cade quest'anno pochi giorni dopo il crollo del liceo Darwin di Torino, in cui ha perso la vita Vito Scafidi e sono rimasti feriti altri 17 ragazzi. Gli studenti lo hanno voluto ricordare così. Adriana Bizzari di Cittadinanza Attiva mette in guardia dal rischio di pensare alla sicurezza scolastica solo dopo le circostanze di emergenza. Sentiamola. Facciamo da 6 anni e diciamo quest'anno abbiamo avuto un'eco pazzesca quando l'abbiamo fatta anche il 25 novembre del 2007, ovviamente non avendo lo stesso tipo di attenzione. Questo è molto triste perché purtroppo il nostro è un paese che dimentica troppo presto le tragedie e fatica a rimboccarsi le maniche e ad affrontare in modo adeguato, questo parlo sia delle istituzioni che dei cittadini purtroppo, situazioni di questo genere che richiedono interventi davvero lunghi, duraturi nel tempo, almeno quinquennali se non decennali. Dal liceo Galileo Galilei di Roma è tutto, a voi la linea. Grazie Francesca Malaguti. Sentivamo interventi lunghi e interventi costosi. Servirebbero 13 miliardi di euro per mettere a norma le scuole italiane. In aula alla Camera è ancora in corso la discussione sull'incidente di Rivoli. A riferire il sottosegretario Guido Bertolaso, capo della Protezione Civile. Sentiamolo. Ciò che è avvenuto purtroppo non costituisce una situazione episodica nelle scuole italiane d'epoca. Se si volesse intervenire in tutti i 57.000 istituti del nostro paese, considerando in modo particolare le zone sismiche di grado primo, secondo e terzo, quindi quelle comunque a sismicità alta, media e bassa, dovremmo ritenere necessario un importo pari a circa 13 miliardi di euro per la messa a norma e la messa in sicurezza di tutti gli istituti. È ovvio che questa somma di 13 miliardi di euro è una somma difficilmente sostenibile. Insieme al Ministero delle Infrastrutture e agli enti locali abbiamo quindi cercato di immaginare una riduzione di quello che è il fabbisogno economico, in modo da garantire comunque interventi per la messa in sicurezza e la messa a norma di quegli istituti che insistono nelle aree a rischio sismico, considerate a rischio sismico elevato e a rischio sismico moderato. E già per questo genere di interventi il fabbisogno sarebbe comunque pari a circa 4 miliardi di euro. Insomma, alcuni miliardi di euro, cifre enormi per sistemare gli istituti scolastici italiani, ma non così grandi, forse se confrontati con i numeri che si sentono citare a proposito della crisi economica. Avete sentito nei nostri titoli le stime dell'OCSE che parlano di recessione durevole anche nel 2009, ne parleremo più avanti, perché adesso ci concentriamo sull'Italia. Oggi il Presidente del Consiglio Berlusconi era all'Assemblea Generale dell'Unione Industriali Romani, occasione per tornare a parlare del piano anticrisi. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, è così, è tornato proprio sul tema dell'ottimismo come soluzione per combattere la crisi il Presidente del Consiglio Berlusconi. Al di là delle misure che possono prendere il governo o le organizzazioni internazionali, ha spiegato Berlusconi, è necessario che i cittadini consumatori non si facciano prendere dalla paura, perché ciò comporterebbe di conseguenza una diminuzione della produzione e un minor reddito per tutti. Il Premier è tornato poi sulle misure anticrisi illustrate ieri dall'esecutivo alle parti sociali. Per le imprese si prevede, tra l'altro, ha detto Berlusconi, la detassazione dei premi di produttività. Ascoltiamo allora le sue parole. Ho deciso di rendere strutturale la detassazione dei premi di produttività e sugli straordinari. Un'azienda con il proprio collaboratore può, lasciando invariato lo stipendio sino all'anno precedente, decidere degli aumenti legati a maggiore impegno o a raggiungimenti di livelli aziendali di produzione e di produttività. E su questo incremento peserà non il 46% che purtroppo pesa sulla restante parte primaria della retribuzione, ma soltanto il 10%. Sulle misure anticrisi, altro capitolo, le famiglie, bonus pensionati e per quelle numerose intervento sui mutui e sulle tariffe. Ascoltiamo ancora il Presidente del Consiglio. Alle famiglie, soprattutto alle famiglie che possono meno, abbiamo parlato di bonus per i pensionati, di bonus per le famiglie numerose, abbiamo trasformato quello che è stata la convenzione con le banche italiane per mantenere intatta la rata di mutui che si pagava in passato in un diritto di chi ha assunto il mutuo, e abbiamo garantito di intervenire con uno stop sulle tariffe, sulle bollette della luce, del gas, sui costi dei biglietti delle ferrovie e delle autostrade. Queste dunque le parole del Presidente del Consiglio Berlusconi, ma all'Assemblea degli Industriali di Roma è intervenuta anche la Presidente di Confindustria Emma Marcegaglia. Dalla crisi si può uscire, ha detto, puntando sulla forza dell'economia reale. Sentiamo la Marcegaglia. Non è la fine del mondo, non è la fine del mercato, non è la fine del capitalismo, la crescita economica ritornerà, noi ne siamo convinti, noi usciremo da questa crisi. È evidente che usciremo da questa crisi diverso, ci sarà un modello economico diverso e forse finalmente ritornerà la centralità dell'economia reale e dell'economia produttiva, di cui noi ci sentiamo protagonisti. Io voglio fare anche, voglio che ci facciamo tutti un grande applauso, perché in questa sala c'è una grande rappresentanza di economia produttiva e di economia sana. solo con l'impegno di tutti, governo e parti sociali e il ragionamento dei leader degli industriali è possibile uscire dalla crisi. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. E mentre il dibattito si svolgeva a Roma, l'Aula della Camera ha approvato intanto questa mattina il decreto legge sulla crisi del sistema creditizio. I voti a favore in Aula sono stati 205, 30 quelli contrari, 150 le astensioni, quasi tutte del gruppo dell'UDC e del PD. Il testo, lo ricordiamo, ora passa però al Senato. Ricordate la giovane Vanessa Russo? Il 26 aprile del 2007 fu colpita ad un occhio dalla punta di un ombrello nella metropolitana di Roma. Ebbene, fu vittima di omicidio volontario. Lo sostiene il procuratore generale di Roma, Alberto Cozzella, che ha chiesto la conferma della condanna a 16 anni di reclusione per Doina Matei davanti alla Corte d'Assiso d'Appello della Capitale questa mattina. Il procuratore ha ribadito infatti che la Matei uccise colpì con intenzionalità omicidio Vanessa Russo, contestando così la formula dell'omicidio preterintenzionale che invece era stata adottata dal GUP nel rito abbreviato. Ancora la cronaca che ci porta ora nel Crotonese. C'è stato un nuovo blitz contro le cosche. 24 persone ritenute appartenenti all'Andrangheta sono state fermate dalla polizia in un'operazione contro le cosche della frazione Papanice di Crotone, protagoniste di una sanguinosa faida. Sequestrate armi da guerra e munizioni, oltre ad una piantagione di marijuana. Al centro delle indagini ci sono presunte infiltrazioni dei clan nell'attività politica degli enti locali, soprattutto in riferimento al progetto per la costruzione di un centro turistico denominato Europaradiso, che volevano costruire proprio nei pressi di Crotone imprenditori israeliani. La polizia ha anche eseguito una serie di perquisizioni nei confronti di esponenti politici, imprenditori e dipendenti pubblici, tra cui alcuni del Ministero dell'Ambiente. Filippo Veltri, GR24, Il Sole 24 Ore, Crotone. Cambiamo completamente argomento. Ci sono miti della televisione che tramontano. Ieri, fra l'altro, ve ne abbiamo parlato proprio da questi microfoni a proposito di Pippo Baudo e degli show del sabato sera. E ci sono invece, Anna, classici che ritornano. Che ritornano sempre. Ormai da mezzo secolo un fedele amico dei bambini. Parte oggi la rassegna canora per ragazzi più amata da generazioni di italiani. È inutile dire qual è. Tutti i bambini e gli ex bambini hanno nel cuore almeno una sua canzone. Ci tiene compagnia da 51 edizioni. È lo Zecchino d'Oro. Ma perché non passa mai di moda? Il direttore dell'Antoniano, padre Alessandro Caspoli. Costruiamo un repertorio di canzoni per bambini ogni anno, cercando di fare in modo di cogliere la sensibilità musicale dei bambini e cercando di parlare di temi che sono legati al mondo dell'infanzia. Caratteristica delle canzoni dell'Antoniano è quella di essere specchio del mondo dei bimbi e del mondo che cambia. Le canzoni dello Zecchino ora sono anche legate a una collana di libri dedicati a integrazione e intercultura, i primi scritti da un amico degli ascoltatori di Radio 24, Alberto Pellai, che anche quest'anno sarà tra gli autori delle canzoni in gara. Ma di cosa parleranno i brani quest'anno? Ancora padre Caspoli. Il bullismo, la natura, l'attenzione all'altro. Quest'anno c'è una canzone di un bambino rumeno che insegna a un altro bambino italiano le parole della sua lingua, il bambino italiano insegna al bambino rumeno le parole della sua lingua. C'è una canzone quest'anno su due marziani che arrivano sulla Terra, Tito e Tato, e che raccontano come si può proteggere l'ambiente. Sono tante piccole tematiche che sono molto legate anche all'attualità e alla realtà che i bambini vivono e toccano tutti i giorni. Come sempre, i bambini che canteranno allo Zecchino sono italiani e stranieri, ma anche qui le cose stanno cambiando. Abbiamo fatto 8 canzoni italiane e 4 canzoni straniere e alcuni dei bambini, una bambina ad esempio che rappresenta la Nigeria, è di madre nigeriana e di papà italiano e vive in Sicilia, e vorremmo anche cominciare a far raccontare attraverso le loro tradizioni musicali i bambini che sono nati in Italia ma i cui genitori hanno tradizioni anche musicali diverse, venirle a raccontare quello Zecchino, perché volenti o nolenti l'Italia sta diventando un paese multiculturale. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. 13:18, le notizie di oggi. A Torino non è stato un caso, dice in aula alla Camera il sottosegretario Bertolaso. In un anno quasi 750 incidenti nelle scuole italiane. Per metterle a norma servirebbero 13 miliardi di euro. E a Milano grave, un bimbo di 6 anni è caduto dal secondo piano della sua scuola, precipitato mentre andava da un laboratorio alla sua classe. In Italia la recessione durerà a lungo, lo dice l'OCSE, che aggiunge: molti paesi sono alle prese con una crisi che non si vedeva dagli anni 80. A rischio c'è l'occupazione. In Italia la disoccupazione risalirà all'8% entro 2 anni. 7 milioni di donne in Italia hanno subito violenza nella loro vita, solo il 4% denuncia. E oggi sono in corso decine di iniziative organizzate in tutta Italia nella giornata proprio contro la violenza sulle donne. Quella che vi facciamo ascoltare ora è il racconto di una di loro, una che è riuscita a denunciare quanto gli è accaduto. L'ha raccolto Anna Marino. La voce che sentirete è stata modificata per mantenere l'anonimato per motivi di sicurezza. Sentite. Ho conosciuto mio marito, che praticamente ero molto giovane. Ci siamo sposati e abbiamo avuto 2 figli. Già dai primi anni ci sono stati, diciamo, dei problemi economici. Poi da lì sono iniziate le violenze, perché lui reagiva in maniera violenta, insomma, nelle discussioni. Poi niente, queste violenze sono continuate per ben 10 anni. Fino a che io non ho avuto il coraggio di denunciarlo e di praticamente separarmi. Ci aveva mai pensato prima? Sì, però non avevo il coraggio, avevo paura, non avevo il coraggio di affrontare questa cosa, insomma. Cosa la tratteneva? I figli? Sì, i figli, pensavo che magari potesse cambiare la situazione, che magari era solo un momento, erano solo dei momenti di ira così. Invece no, perché la cosa cercava proprio praticamente la mistigava, cercava proprio la motivazione per poi reagire in maniera violenta. Ecco, per quanto riguarda proprio i suoi figli, sono stati invece anche un motivo per reagire? Sì, perché quando ho visto che mio figlio, in una delle tante discussioni, delle tante reazioni di mio marito con violenza, si è sentito male, e allora praticamente si è accasciato per terra e come ha perso i sensi, si sono irrigidite le gambe, tremavano tutte, e da allora ho detto smettila, vedi, anche tuo figlio si sente male. Lui ha detto: a me non me ne importa niente. Così allora da allora ho detto: adesso basta, perché non si può più andare avanti così. Da lì è cominciato un percorso. All'inizio ho fatto qualche denuncia e ho denunciato, però ovviamente le forze dell'ordine più di tanto non potevano fare, perché dice: signora, o prende, si deve separare, deve fare un certo percorso. Loro nei momenti quando intervenivano che c'era violenza mi dicevano: se ne va via di casa, lo lasci da solo, eccetera. Poi una mia amica, un'amica di famiglia che praticamente sapeva tutta la situazione, mi dice: adesso insomma troviamo il modo per aiutarti, per uscire fuori da questa situazione, perché quindi mi ha accompagnato al telefono rosa, che io non conoscevo assolutamente l'esistenza, insomma, purtroppo. Poi che cosa è successo? È che poi tramite il telefono rosa ho avuto l'allontanamento da casa del violento, la separazione, tutto quanto. Lui, durante questa fase di separazione, come si è comportato? Molto male, praticamente minacce, pedinamenti, insomma io avevo paura, quando uscivo di casa non guardavo intorno se c'era lui, insomma, ha reagito molto male, molto. Una specie di ossessione nei suoi confronti? Sì, esatto, sì. E continua ancora adesso? No, adesso fortunatamente no. Adesso sono tranquilla. Come vive adesso? Molto bene. tranquilla, a casa con i figli, ho un lavoro e quindi per me, come dico sempre, è come se avessi fatto una vincita al Superenalotto. In realtà non è così, però insomma, però quindi quando uno ha una grossa vincita rimane, insomma, cambia la vita, no? Che cosa l'ha aiutato? Non essere da sola, avere la legge dalla sua parte? Io avevo molta paura, insomma, tante volte ho avuto dei ripensamenti, però poi alla fine ho trovato il coraggio, quello è l'importante, trovare il coraggio di denunciare e poi di affrontare tutto quello che comporta poi, perché non è che soltanto denunciandosi, insomma, bisogna avere coraggio. Sì, la legge dalla mia parte, poi diciamo più che altro mi hanno aiutato anche mio figlio, che mi ha dato la forza di affrontare, insomma, questa separazione, ecco. E le esperienze di altre persone che si sono trovate nella sua situazione come hanno pesato? Ho detto, allora non ero solo io che vivevo questa situazione, cioè non era una vita giusta come io pensavo che magari non fosse così, insomma, la mia situazione, ecco, nel senso mi ero abituato a un certo tipo di situazione. Donne e violenza nelle loro case, questo nel racconto nell'intervista di Anna Marino, ma anche donne che sono spesso al centro di violenze nei luoghi di guerra. Questa volta il nostro diario dal Congo di Giampaolo Musumeci. Essere sfollati in Congo è un dramma, ed essere una donna è una vera e propria tragedia. Nel campo profughi di Kibati, alle porte di Goma, la settimana scorsa è morta una giovane, uccisa da un proiettile delle FARDC, le forze governative. Voleva scappare ed evitare una violenza sessuale. A nulla è valsa la fuga tra il buio delle baracche e delle tende. Le donne qui in Congo sono un bersaglio, e chi ha un'arma in mano ha garantita l'impunità. Così quando quella notte alcuni militari governativi sono entrati nel campo a nord di Goma, sapevano che avrebbero fatto quello che volevano, come tante altre volte, e sapevano che nessuno di loro avrebbe pagato per una tentata violenza e per un omicidio. La polizia locale che preside il campo con 4 uomini e un fucile non ha mosso un dito, anzi ha mosso i piedi ed è scappata. Il contingente ONU non preside i campi profughi e così chi dovrebbe difendere i quasi 150.000 sfollati dei 6 campi gestiti dall'Alto Commissariato per i Rifugiati diventa la minaccia. La soluzione, proprio secondo l'ONU, sono le ronde civili, gruppi di uomini che girano per i campi profughi e quando vedono una decina di militari frustrati, sovraccitati, magari ubriachi, armati di Kalashnikov, dovrebbero dare l'allarme. Siamo al limite del surreale. I muri di Goma sono colmi di annunci del governo per sensibilizzare la popolazione rispetto al problema della violenza sessuale sulle donne, ma tutti qui sembrano essere refrattari. E così anche le tante ONG presenti sul territorio, dal gigante UNICEF alla piccola agguerrita italiana COPI, svolgono un grosso lavoro di sensibilizzazione nei villaggi e nella città della regione, oltre ad aiuto sanitario, psicologico e a progetti di reintegrazione. Qui a Goma, insomma, i mali sembrano sommarsi l'uno all'altro in una spirale infernale che la guerra non fa che accentuare. E voltiamo pagina. Il vero e il falso. Dal 26 novembre, da domani al 20 gennaio, per la prima volta la storia del falso monetario italiano in mostra a Roma nella caserma generale Sant'Elaria, piazza Armellini, organizzata dal Comando Generale della Guardia di Finanza, collaborazione tra gli altri di Banca d'Italia, Zecca dello Stato e ABI. Insomma, volete sapere quante e quali monete false ci sono in circolazione? Sentite. Dalle monete d'argento romane al denaro di plastica, passando per lire, dollari ed euro. Vecchie come le originali, anche le false banconote ora assurgono a dignità d'opera d'arte. E così la mostra, organizzata dal Comando Generale della Guardia di Finanza, diventa un percorso di 2000 anni nella lotta alla contraffazione. Moneta originale e falsa, una accanto all'altra, come in un gioco per aguzzare la vista a caccia dell'errore, o come furono costretti a fare falsari ebrei nel campo di Schassenhausen, una storia raccontata anche nella pellicola Il falsario. 75517 Salomon Zorovic, il re dei falsari, maggiore delle SS Herzog. Si ricorda? Commissariato centrale. Nucleo antifalsificazione. Dal 1896 al 2002 le banconote emesse dalla Banca d'Italia si lasciano ammirare una dietro l'altra e l'arrivo dell'euro ha risvegliato mai sopite passioni criminali, portando la moneta europea a diventare la seconda più contraffatta dopo il dollaro, che a Pomezia riproducevano in una stamperia clandestina. Clonare le carte di credito è invece l'ultima frontiera della malavita, causa dal 2006 di un danno superiore al miliardo di euro. Il comandante del gruppo antifalsificazione monetaria, colonnello Amedeo Farrugio. Le tecniche di falsificazione seguono di pari passo l'evolversi delle tecniche di produzione delle banconote, così come quelle della moneta elettronica. Ogni anno in Europa infatti si stimano circa 10 milioni di transazioni fraudolente presso 500.000 esercizi commerciali circa. Raffaella Calandra, GR24, Il Sole 24 Ore. 13:34 minuti, le notizie di oggi extra large. Quasi 750 incidenti nelle scuole italiane solo nell'ultimo anno. A Torino non è stato un episodio isolato, dice in aula alla Camera il sottosegretario Bertolaso. Mettere gli edifici scolastici a norma servirebbero 13 miliardi di euro. E a Milano grave, un bimbo di 6 anni è caduto dal secondo piano della sua scuola. Il piccolo è precipitato mentre rientrava in classe da un laboratorio. Piano anticrisi per famiglie e imprese. Da questa situazione usciremo migliori, ma serve unità, dice la presidente degli industriali, Marcegaglia. In Italia la recessione durerà a lungo, avverte però l'Ocse. Il rischio dell'occupazione risalirà all'8% entro 2 anni nel nostro paese, secondo le stime. Diplomazia americana al lavoro per far rientrare la nave rapita dai pirati somali. Trattative in corso, si parla di un riscatto. 3 morti a San Pietroburgo per una bomba. A rischio la partita della Juventus. In programma questa sera il governo russo potrebbe chiedere il rinvio. In Italia la recessione durerà a lungo, non sono buone notizie quelle che arrivano dalle stime dell'Ocse che parla dell'andamento dell'economia internazionale. Dice l'Ocse, c'è una crisi in atto così grave che non si vedeva dagli anni 80. Per l'Italia a rischio sono soprattutto i posti di lavoro. Deborah Rosciani. Sì, buongiorno. In Italia, lo dicevate, la recessione in atto sarà più ampia e profonda rispetto alla media delle crisi precedenti. Questo è quanto ha detto il capo economista dell'Ocse, Klaus Schmidt-Hebel, presentando l'outlook economico semestrale che stima l'andamento del prodotto interno lordo italiano a meno 0,4% per quest'anno e addirittura meno 1 punto percentuale per il 2009. L'Ocse è così più pessimista della Commissione europea, che prevede una crescita zero nel 2008 per il nostro paese e per il 2009, e anche del Fondo Monetario Internazionale, che invece si aspetta un calo del PIL italiano dello 0,2% quest'anno e dello 0,6% il prossimo anno. Dunque l'Ocse certifica la recessione per quello che riguarda il nostro paese, ma anche per tutti gli altri paesi dell'area, che dice o sono già in recessione o sono sull'orlo di una recessione prolungata di una magnitudo che non si vedeva da inizio anni 80. Come risultato il numero dei disoccupati potrebbe aumentare nell'area Ocse di 8 milioni nei prossimi 2 anni. Tornando al nostro paese, l'Ocse traccia appunto un quadro dettagliato, sostenendo che comunque, a dispetto delle previsioni sul PIL, in Italia la crisi immobiliare ha colpito meno che altrove e le banche non hanno fatto finora ricorso al sostegno pubblico. L'unica banca che ha proceduto ad una significativa raccolta di nuovo capitale lo ha fatto senza alcun fondo o garanzia pubblica, scrive l'Ocse appunto nel suo rapporto, facendo evidentemente riferimento alla Unicredit di Alessandro Profumo. Un'ultima considerazione: nelle attuali circostanze, a fronte dell'indebolimento dell'economia, dice l'Ocse sempre a proposito dell'Italia, bisogna lasciar agire gli stabilizzatori automatici, senza dimenticare che a causa dell'alto livello di debito pubblico un'ulteriore riduzione della spesa pubblica resta inevitabile. È tutto. Grazie Deborah Rosciani. Del piano anticrisi italiano abbiamo già parlato, veniamo ora a quello americano. Alle 18 di oggi il presidente Barack Obama ha annunciato una conferenza stampa il giorno dopo la presentazione del suo team economico. Ho scelto le miglioramenti per fronteggiare la crisi, ha detto ieri Obama, e anche il piano di rilancio dell'economia comincia un po' a delinearsi. Andiamo negli Stati Uniti. Barack Obama ha mantenuto la promessa, ha fatto ieri le sue nomine per la squadra economica, ha confermato e illustrato le linee generali del suo piano di stimolo per l'economia e in qualche modo ha rassicurato il settore dell'auto. Se ci sarà un programma più specifico, gli aiuti verranno anche per loro. Un messaggio questo che ha rassicurato la borsa. Abbiamo visto un rialzo a Wall Street del 4,80%, perché sostanzialmente con le due nomine chiave, e cioè quella di Tim Geithner al Dipartimento di Stato e di Larry Summers alla guida del Consiglio per la sicurezza economica, il presidente eletto Obama dà due messaggi molto chiari. Ciascuno avrà un incarico specifico. Geithner, che già si occupa della soluzione della crisi finanziaria, già da subito dovrà occuparsi, questa volta con l'autorevolezza di essere ministro in pectore del presidente in arrivo, della stabilizzazione della crisi finanziaria. Conosce a fondo la materia, è stato parte del progetto con Paulson e con Ben Bernanke per rimettere in piedi questo settore bancario e finanziario in genere. Ricordiamo anche il comparto assicurativo è colpito dalla crisi, mentre invece Larry Summers si occuperà della messa a punto del pacchetto di stimoli dell'economia. Si dice che sarà un pacchetto molto ampio, fra i 500 e i 700 miliardi di dollari, e affronterà anche la questione auto. Infine, sulla questione fiscale, Barack Obama si è tenuto sul vago, ma ha fatto capire che alla luce delle difficoltà economiche ci sarà sì un taglio delle tasse per la classe media, ma forse non ci sarà immediatamente l'aumento delle tasse per quel 5% più ricco della popolazione che aveva promesso durante la campagna elettorale. Mario Platero, GR24, Il Sole 24 Ore, New York. E adesso invece andiamo in Russia, dove tre persone sono rimaste uccise questa mattina nell'esplosione di un'automobile nei pressi di una stazione della metropolitana. È avvenuto a San Pietroburgo. Le autorità stanno ancora cercando di fare luce sull'accaduto. Sono davvero poco chiare le circostanze che questa mattina a Pietroburgo, alle 7 ora italiana, hanno portato all'esplosione di un'auto che trasportava quattro persone verso la stazione del metro Udielnaya, a nord della città. Le vittime sono tre, tra loro un bambino di circa 3 anni e una donna. L'autista della Lada, un taxi senza licenza, è grave in ospedale. Secondo una fonte delle forze dell'ordine di Pietroburgo, i passeggeri lo conoscevano bene, ma uno di loro avrebbe avuto con sé un ordigno esplosivo, che secondo la fonte è esploso accidentalmente. Il Ministero russo delle emergenze ha escluso che l'episodio possa avere alcun legame con la presenza in città del primo ministro, Vladimir Putin. La polizia ha aperto un'inchiesta per omicidio, escludendo l'ipotesi di terrorismo. Antonella Scott, GR24, Sole 24 Ore, Mosca. E a San Pietroburgo si trova la squadra di calcio della Juventus, che alle 18.30 del pomeriggio dovrà affrontare la sfida di Champions League contro lo Zenit. La squadra è al sicuro, si trova a 10 km in un albergo distante dal luogo dell'esplosione. Si era diffusa la notizia di uno spostamento della partita, però l'UEFA non ha ancora confermato, dunque la gara dovrebbe svolgersi regolarmente. E apriamo la nostra finestra sul mondo arabo, che oggi ci porta sulle rotte della petroliera sequestrata lungo le coste somale. In cambio del pagamento di un riscatto non superiore ai 2-3 milioni di dollari USA, la superpetroliera saudita sequestrata dai pirati somali starebbe per essere liberata entro il prossimo venerdì. Ad affermarlo stamane è il quotidiano saudita Ocas, che cita fonti petrolifere vicino ai negoziatori. Il giornale afferma che il riscatto sarà pagato attraverso una società americana specializzata alla quale si sarebbero rivolti i sauditi per intavolare una trattativa con i predoni del mare. Predoni che, secondo le fonti, sono dei mercenari in cerca di denaro e decisi a non lasciare la nave in cambio di niente. Adif Tahali, GR24, Il Sole 24 Ore. Alla Corte d'Assise di Brescia riapre il processo per la strage di Brescia avvenuta il 28 maggio del 1974. A 34 anni di distanza, 6 imputati sono nuovamente chiamati a rispondere di concorso in strage. E il libro di oggi lo dedichiamo a questo. Ne abbiamo parlato con Nicola Rao, autore del Sangue e la Celtica, storia armata del neofascismo, Sperling e Kufer, editore. Io ho cominciato a scavare, diciamo, sulla storia e sulle radici del neofascismo italiano con il scrivendo il primo volume, La fiamma e la celtica, che si concentrava e si soffermava soprattutto sugli aspetti politici, culturali e anche umani, se vuoi, del neofascismo. Con questo secondo volume, Il sangue e la celtica, mi concentro invece sugli aspetti violenti, sul rapporto tra neofascismo e la violenza, e qui anche tra il neofascismo e il terrorismo, e quindi diciamo comincio a raccontare una storia armata del neofascismo. Il terzo volume completerà questa trilogia e concluderà la storia armata del neofascismo parlando degli anni 70, degli anni 80, lo spontaneismo armato e la parabola dei NAR. Il neofascismo oggi è sicuramente una chiave di lettura di un certo periodo della storia italiana, ma è anche per esempio la riapertura del processo per la strage di Brescia, la Corte d'Assise che è chiamata a giudicare 6 imputati. Sono 6 personaggi che incrociano sicuramente la storia del neofascismo e dell'estremismo di destra, ma non solo. Vogliamo anche quadrare questi personaggi. Guarda, il processo che si apre a Brescia è un processo che in realtà raccoglie fondamentalmente le rivelazioni o i racconti di 2 personaggi, uno che non c'è più, che si chiamava Carlo Di Giglio, e un altro che invece c'è ancora, che si chiama Maurizio Tramonte. Questi personaggi hanno entrambi la stessa caratteristica, erano a metà militanti diciamo dell'ambiente di Ordine Nuovo del Veneto e a metà uomini dei servizi. Carlo Di Giglio addirittura legato all'intelligence statunitense e Maurizio Tramonte, col nome di Fonte Tritone, era una fonte del SID. Ora queste persone raccontano, secondo i magistrati, che a mettere la bomba a Brescia fu sempre questa diciamo cellula stragista di Ordine Nuovo guidata da Maggi come Gondolfo Zorzi come uomo di mano, che come sappiamo è già stata processata e peraltro assolta per la strage di Piazza Fontana. La particolarità di queste accuse, scusami, è che coinvolgono anche Pino Rauti e il generale Delfino, all'epoca capitano dei carabinieri a Brescia. E le accuse a Pino Rauti sono rivolte a lui come capo diciamo dell'ambiente di Ordine Nuovo e quindi sono un po' deduttive, nel senso che sostengono che non poteva non sapere quello che i suoi uomini in Veneto facevano. Questo mi sembra un po' l'anello debole dal punto di vista strettamente giudiziario. Poi se passiamo sul piano storico, diciamo un altro piano, no? un altro livello, allora possiamo sbizzarrirci a fare tutte le ricostruzioni e le elucubrazioni che vogliamo. Però se rimaniamo strettamente su quello giudiziario, mi sembra un po' debole da questo punto di vista. 13:47 minuti, 30 secondi, le notizie di oggi extra large. Quasi 750 incidenti nelle scuole italiane nell'ultimo anno. A Torino non è stato un episodio isolato, dice il sottosegretario Bertolaso, e a Milano grave un bimbo di 6 anni è caduto dal secondo piano della sua scuola. Piano anticrisi, da questa situazione ne usciremo migliori, ma serve unità, dice la presidente degli industriali Marcegaglia. In Italia la recessione durerà a lungo, avverte l'Ocse. 3 morti a San Pietroburgo per una bomba. A rischio la partita della Juventus in Champions League, in programma questa sera. Il governo russo potrebbe chiedere il rinvio. Slitta la data del voto in Abruzzo, è stato firmato stamane dal presidente della Corte d'Appello dell'Aquila il decreto di rinvio al 14 e 15 dicembre. E allora andiamo subito con i dettagli di questa notizia che è di pochi istanti fa e che riguarda appunto lo slittamento del voto in Abruzzo. Stefano Totoro. Sì, buongiorno a voi nostri ascoltatori. Il presidente della giunta regionale Enrico Paolini ha firmato questa mattina presso l'ufficio del presidente della Corte d'Appello dell'Aquila il decreto per lo spostamento per il rinvio delle elezioni fissate inizialmente per il 30 novembre e 1 dicembre. Rinvio dovuto alla riammissione in base alla decisione del TAR di una lista elettorale bocciata dall'ufficio circoscrizionale elettorale il 6 novembre scorso. Dunque non si voterà più il 30 novembre, 1 dicembre, ma si voterà il 14 e 15 dicembre. C'è però una spada di Damocle che grava ancora sulle elezioni abruzzesi, ovvero un ricorso presentato al TAR, su cui il TAR si pronuncerà domani, presentato dalle liste di Di Pietro e di Storace, che grava sempre su la lista del Partito del Popolo delle Libertà. Ricorderete infatti che c'erano state delle irregolarità nei giorni scorsi e la Corte d'Appello aveva deciso di riammettere la lista del Popolo delle Libertà. C'è però un'altra irregolarità che hanno denunciato appunto le liste di Pietro e Storace. Il TAR si pronuncerà domani e a questo punto bisognerà vedere che cosa deciderà. Dunque le date sono fissate per il momento a 14 e 15 dicembre, ma sembra che la partita sia ancora tutta da giocare. Per il momento è tutto. Grazie a Stefano Totoro. E proprio in questi minuti, proprio per decidere le regole TV per le elezioni in Abruzzo, il senatore Villari aveva convocato la commissione Vigilanza Rai. Elisabetta Fiorito, lì che succede? Sì, abbiamo molto da fare, ci sono le elezioni in Abruzzo, queste le parole del presidente eletto della commissione di vigilanza RAI Riccardo Villari, che ha convocato l'ufficio di presidenza e che ribadisce così di non avere nessuna intenzione di dimettersi. Vado avanti, dice Villari, voglio operare per riportare al centro dell'interesse il lavoro della commissione e spero che oggi venga anche il PD. Villari, espulso dal Partito Democratico la settimana scorsa, auspica che la commissione operi in tutta la sua interezza, in quanto c'è anche il rinnovo del CDA RAI e spera quindi in una soluzione condivisa. Ma il segretario PD Walter Veltroni ha incontrato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta per trovare una soluzione, una modifica del regolamento basterebbe a far decadere Villari da presidente. A parte la commissione di vigilanza, per il PD è comunque una giornata difficile, il segretario Veltroni avvisa le correnti, chiarimento oppure si andrà a congresso, previsto un vertice dei leader di partito con l'ala dalemiana in netto contrasto con il segretario, anche se Anna Finocchiaro, dalemiana di ferro, ribadisce Veltroni non è a rischio. Per Beppe Fioroni la sfida Veltroni-D'Alema è una vecchia eredità e sta diventando un'ossessione. Per il momento qui da Roma è tutto, voi studio. Grazie Elisabetta Fiorito. Poco fa un messaggio del capo dello Stato su tutt'altra vicenda, quella che riguarda il caso Eluana Englaro, ma non solo. Dice il capo dello Stato, in una lettera inviata al presidente del Movimento per la Vita, sui temi della vita è necessario il massimo sforzo di convergenza in Parlamento tra i diversi modi per un intervento legislativo ormai indispensabile e non più procrastinabile. Dunque Napolitano spinge per una legge sul tema della vita e della morte. Abbiamo aperto il nostro giornale raccontandovi dei tanti incidenti nelle scuole di edifici scolastici pericolosi. Quella che vogliamo raccontarvi ora è una storia invece positiva, un'esperienza che ha funzionato e da Milano ce la racconta Dario Ceccarelli. Sì, buongiorno Anna, vengo dall'Istituto Beccaria, più noto a Milano come Riformatorio Carcere Giovanile. Questa volta però ne parliamo con piacere, l'occasione infatti è l'inaugurazione di una nuova palestra per i ragazzi che era inagibile dal 2000 6 è ristrutturata grazie all'intervento di una fondazione, la Laureus, e della provincia di Milano. Il bello della giornata però è stata la presenza di due grandi campioni dello sport, il rugbista Alessandro Toncon e l'ex campione del mondo dei pesi medi Marvin Hagler. Con loro i ragazzi del Beccaria hanno dato vita a una partita a calcetto un po' improbabile, però molto appassionata e divertente. Un bel momento soprattutto per i ragazzi, che ha portato una ventata di allegria in un mondo dove traumi e sofferenze sono all'ordine del giorno. Lo sport, anche se non è risolutivo, a volte compie questi piccoli miracoli, come spiega Troncon, più di 100 volte in maglia azzurra. Sicuramente può essere un esempio di come anche si possono affrontare certe difficoltà, certe situazioni nella vita normale, perché lo sport abbiamo sempre detto che è esempio di vita. Dopo chiaramente ci deve essere la volontà dei ragazzi per venire fuori dagli errori che hanno commesso in passato, però penso che lo sport possa essere sicuramente un aiuto per loro e un modo anche per magari per esprimersi, per esprimere le proprie pressioni, la propria aggressività. Quindi lo sport fa in ogni caso bene. Un concetto ripreso con qualche difficoltà in più per la lingua da Marvin Hagler, ingrassato di una ventina di chili rispetto agli anni 80, ma sempre reattivo. Ascoltiamolo. Sì, io penso sì, perché per loro esercizio non solo fisico, ma mentale anche, perché loro bisogna conoscere che gente interessa con loro. E so con l'Arnitz, perché io qui, ho visto dei bambini e io molto felice che io qui. L'Italia ti piace sempre? Italia sì, mi piace Italia perché gente qui è grande cuore, tutti le culture è benissimo, anche le magari. Insomma, dopo qualsiasi sfida, una bella spaghettata mette d'accordo tutti. Dal Beccaria è tutto, a voi la linea. Grazie Dario Ceccarelli, e ci sono aggiornamenti anche per quanto riguarda la notizia di apertura, l'incidente che ha colpito un bambino in una scuola elementare nel milanese. Marco Lignana. Sì, buongiorno Alessio, proprio in questi momenti si sta facendo strada un'ipotesi, sembra che il bambino, lo ricordiamo, di nazionalità cinese di 6 anni, sia rimasto da solo nel laboratorio d'inglese al termine della lezione, avendo trovato la porta chiusa anche se non a chiave. potrebbe aver cercato una via di fuga attraverso la finestra e forse affacciandosi un po' troppo sia caduto. Questa, ribadiamo, è solo un'ipotesi, mentre è certo che il bambino si trova adesso all'ospedale Niguardia in gravissime condizioni. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea. A Torino non è stato un caso, le scuole italiane sono insicure, dice il capo della Protezione Civile Bertolaso. Servirebbero 13 miliardi di euro per metterle a norma. E in un anno gli incidenti sono stati oltre 700, l'ultimo questa mattina, l'avete sentito, un bimbo di 6 anni è caduto dal secondo piano di una scuola milanese. Piano anticrisi per famiglie e imprese. Da questa situazione usciremo migliori, ma serve unità, dice la presidente degli industriali, Marcegaglia. Ma nel 2009 sarà ancora recessione, avverte l'Ocse. Slitta il voto in Abruzzo alle urne il 14 e 15 dicembre, ma pende già un altro ricorso. 3 morti per una bomba a San Pietroburgo e questa sera in città si gioca Champions League con la Juventus in campo. La diplomazia americana prova a fermare i pirati somali verso un riscatto per la petroliera sequestrata. GR Extra Large, Alessio Maurizi e Anna Migliorati in studio. È tutto anche per questa edizione, con il coordinamento di Maria Piera Ceci, in regia Filippo Aureggi. Extra Large @radio24.it, come sempre, se volete scriverci, e l'appuntamento è per domani dalle 13. GR 24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.